9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 16 marzo, perdonatemi se oggi avrò una voce un po' problematica, ho avuto un qualche problemino e quindi mi sforzo un pochino a parlare oggi, ma comunque spero che non si sente troppo. Allora, la puntata di oggi era pressoché obbligata prima che di apprendere ieri sera che poi il Presidente del Consiglio insieme tra l'altro al direttore del TG1 e ad altri è effettivamente indagato dalla Procura di Trani, lo abbiamo sentito a tutti i notiziari, è indagato per l'ipotesi di concussioni e per questo articolo 338 che ipotizza la minaccia, la pressione impropria a organi istituzionali, a corpi amministrativi istituzionali dello Stato. Prima di quella notizia la scelta che avevamo fatto era pressoché obbligata, perché ci sembrava invece che questo singolare rimpallo tra il Consiglio d'amministrazione della RAI e la Commissione parlamentare di vigilanza che è andato in onda ieri meritasse l'approfondimento di oggi. Lo sapete, il Consiglio d'amministrazione della RAI a maggioranza ieri, pur dopo la pronunzia del TAR che ha annullato per le reti private le limitazioni che erano state anche alle reti private imposte in seguito al nuovo regolamento sulla par condicio, accogliendo in tal senso il TAR l'istanza avversa che era stata presentata da Sky e da Telecom Italia, pur in presenza di questa decisione del TAR che quindi ha liberalizzato, ha tornato a rendere possibile l'informazione di approfondimento al di fuori dei vincoli particolari e aggiuntivi che erano stati posti dalle nuove norme per le reti private, il Consiglio di amministrazione della RAI ieri a maggioranza ha deciso che per il momento i talk di approfondimento sulle reti pubbliche radiotelevisive non ci sono ancora. Perché? Perché si è aperto un singolare braccio di ferro con la Commissione parlamentare di vigilanza e quindi il Consiglio di amministrazione della RAI a maggioranza ieri ha detto alla Commissione parlamentare di vigilanza: cara Commissione, o tu dai nuove indicazioni rispetto a quelle che avevi già formulato, oppure, come è evidente, noi non possiamo dire di sì, però poi imporre ai talk a Ballarò, ad Anno Zero di Santoro, a Porta a Porta di Bruno Vespa, di andare in onda ma con quelle granitiche, barocche, nuove norme per cui bisognerebbe invitare ogni volta le 16 parti politiche e il totale dei 52 partecipanti era diverse regionali, in maniera equilibrata e bilanciata, perché in quel caso sarebbero i talk pubblici a dover sottostare a queste regole, non quelli privati, e allora la cosa naturalmente non starebbe in piedi. Potrebbe apparire un argomento di buon senso, nella realtà non lo è, perché di fronte ai, questa è la mia opinione personale ovviamente, oggi approfondiremo con i commissari della maggioranza e dell'opposizione, perché a furia di auto ribaltarsi in argomenti formali, è evidente che resta ancora un contrasto tra le norme che erano state indicate e gli effetti della decisione del TAR invece sulle reti private, però a furia di rincorrere le responsabilità formali al rimpiattino, quello che è evidente poi all'opinione pubblica, agli elettori che si devono formare le loro opinioni sui fatti, è semplicemente un collasso dell'intelligenza, del buon senso, perché che la RAI, a cui poi gli italiani pagano il canone, come è noto non molto volentieri, al momento clou di un passaggio politico così arroventato, così tumultuoso, così ancora una volta in grado di confermare di volta in volta, quando scendiamo il gradino elettorale ci sembra di aver toccato il punto più basso delle campagne elettorali precedenti, invece di volta in volta, ancora una volta, ci sono sorprese, perché è evidente che, come ripeto tutti i giorni, le caratteristiche particolari della leadership di Berlusconi oramai hanno fatto arrivare a un punto di acme, di diapason lo scontro, pur di rimuoverlo e pur di sottolinearne gli aspetti che ne caratterizzano da una parte la presa sull'elettorato ma dall'altra anche l'anomalia rispetto al panorama politico, alla storia istituzionale del nostro paese. E quindi dopo il Lodo Alfano, ecco che siamo, dopo Lodo Alfano caduto, ve lo ricordate, per via della Corte, io non sono molto stupito del fatto che ci troviamo in una campagna elettorale che vede trionfo di nuove intercettazioni da parte di tutte le procure, e quindi dopo l'indagine di Bertolaso abbiamo avuto l'indagine che ha riguardato le telefoniche e il senatore Di Girolamo, e ora siamo a questa indagine nata sulle carte revolving di American Express, ma che poi incardina ipotesi di reato tutte dirette al Presidente del Consiglio, e ipotesi molto gravi. Cioè, tanto per tornare sul tema del giorno, all'ipotesi che trovata certificata nelle telefonate incidentalmente raccolte dalla procura di Trani per un filone di indagine del tutto diverso, in cui il Presidente del Consiglio chiede insistentemente a membri della a commissari dell'autorità di garanzia per le comunicazioni espresse dalla propria parte politica di fare il diavolo a quattro per bloccare le trasmissioni di Santoro, e in questo poi si avvarrebbe anche di una rete di un membro del CSM che dà pareri legali a questa cosiddetta cricca, così definita da alcuni giornali italiani. E così via. La reazione che viene da Palazzo Chigi è, come al solito, di costernazione, non si capisce quale sia il reato, non si capisce come e perché abbiano intercettato, dovrebbero chiudere le indagini e girarle al Tribunale dei Ministri, invece Colapristo, il procuratore capo di Trani, di cui avevamo letto nelle prime ore in cui si era preso di questa indagine, di un contrasto col pubblico ministero che l'aveva condotta avanti, contrasto che invece è poi stato smentito, che dice no, noi andremo avanti fino in fondo, oggi sarà proprio Santoro che non può fare la sua trasmissione alla RAI a essere interrogato dai magistrati di Trani e a depositare un corposissimo faldone di atti che comprovano con ogni evidenza l'accusa, perché lui depositerà tutte le lettere di cui è a conoscenza, in cui membri del consiglio di amministrazione della RAI interloquiscono con membri della GCOM chiedendo interventi e segnalazioni ex ante che i membri della GCOM dichiarano di non poter fare al consiglio di amministrazione della RAI, che più volte sembra quasi in grado di desideroso di chiedere all'autorità delle comunicazioni segnalazioni ex ante per poter dire a Santoro no, non va in onda. Insomma, a me sembra una terribile, terribile vicenda, perché ai telespettatori o agli elettori privi di opinione politica pregiudiziale, cioè che non si riconoscono in una delle due parti in lotta, non si riconoscono nel bipolarismo tribale in cui qualunque cosa avvenga si è così sicuri delle proprie ragioni che si dice che gli altri hanno torto, ma a chi invece tenta di farsi un'opinione a prescindere da questo, sembra una lotta senza esclusione di colpi. Io ricordo che poi in commissione parlamentare di vigilanza questo particolare regolamento contro cui da questi microfoni ci siamo battuti nasceva da una specie di ribaltamento nuovo della logica, perché era il commissario radicale a fare la differenza, perché alla ricerca di un regime di par condicio così blindata che restituisse visibilità e dignità alla esistenza, alla RAI, anche del proprio partito, che veniva invece considerato bandito e discriminato, e per tutto questo si è messa in moto una convergenza tra radicali e centrodestra che evidentemente non voleva i talk di un segno politico in campagna elettorale, tale per cui è la RAI la parte che è rimasta unica a non mandare in onda dei talk che per tutto il resto dell'anno non considera politicamente squilibrati e che a maggioranza in campagna elettorale considera squilibrati, in questo però esponendosi al fatto che oramai la RAI sembra non più in grado di dare uno straccio di informazione per il libero formazione del convincimento politico dell'elettore. E allora cosa diavolo paghiamo il canone a fare? Ecco, questa è la mia conclusione un po' disperata man mano che ci avviciniamo alla tornata elettorale di questa volta. Ma può essere che io sbagli tutto e che mi sfuggano degli elementi. Per questo ecco gli ospiti di giornata a cui chiediamo di darci dei lumi, perché ripeto, può essere che io sia afflitto da un eccesso di pessimismo. Allora, abbiamo collegati con noi innanzitutto Alessio Butti, che è capogruppo del PDL nella commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Buongiorno onorevole Butti. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. E poi Fabrizio Morri, capogruppo del PD, sempre in commissione vigilanza sulla RAI. Buongiorno onorevole Morri. Buongiorno. Allora, io comincerei da lei, onorevole Morri. Naturalmente lei parla a nome della Commissione di Vigilanza RAI, non è titolo per dare giudizi sul voto espresso ieri al Consiglio di Amministrazione della RAI a maggioranza, in cui i commissari, i membri del Consiglio espressi dall'opposizione sono risultati minoritari e quindi la RAI resta resta nei vincoli. Però rispondiamo, per così dire, dal suo punto di vista all'implicita, anzi esplicita polemica che la maggioranza del Consiglio di amministrazione della RAI ha rivolto ieri a voi come Commissione Vigilanza sulla RAI. È fondato o meno il dire che o voi tornate sulle vostre decisioni, oppure che diavolo di decisione può prendere CDA della RAI, perché manderebbe in onda dei talk show che non sarebbero quelli ordinari che si aspetta da Santoro, da Floris, da Vespa, il loro pubblico, ma sarebbero delle specie di barzellette rispetto a quelle della invece concorrenza libera da vincoli. Ha ragione o ha torto la maggioranza del CDA della RAI, onorevole Morri? Ha almeno in buona misura torto, perché è vero che il regolamento della commissione, che io non ho votato e ho cercato di contrastare in ogni modo, è un regolamento sbagliato, fatto in violazione della stessa legge sulla par condicio, che qualunque opinione assolutamente legittima si abbia della legge della par condicio, è giusto che gli ascoltatori sappiano che nei suoi 10 anni di vita, la legge del 2000 se non ricordo male, mai in nessuna campagna elettorale, in Italia si vota almeno una volta all'anno, mai ha chiesto alle aziende editoriali, sia pubbliche che private, di chiudere i propri autonomi spazi di informazione. Mai, perché ha sempre distinto, ribadito questo concetto anche da una sentenza della Corte Costituzionale, ha sempre distinto tra trasmissioni di approfondimento e trasmissioni di comunicazione politica, le tribune, le conferenze stampa, queste cose dovute dalla RAI per legge, questo sì, per la legge della par condicio, dovute in periodo elettorale a tutti i soggetti che concorrono a una scadenza elettorale medesima. E quindi ha torto in questo, perché dopo la sentenza del TAR, visto che i colleghi del centrodestra si sono spinti fino a fare distinzioni tra forma e sostanza, è del tutto evidente che l'autorità ha dovuto annullare il proprio regolamento per le private, che è fotocopia del nostro, votato in vigilanza dai colleghi del centrodestra più il collega radicale. Tutto evidente che questo regolamento non c'è più, se si guarda la sostanza delle cose. È impensabile che valga un regime per le private. Ripeto che io condivido, perché io ero sicurissimo che avrebbero dato ragione a Mediaset, a Sky, alla 7, a chi ha ritenuto di ricorrere contro quel tipo di regolamento dell'autorità, ripeto, fotocopia del nostro. Ora, dunque, non si capisce perché una cosa che andrebbe ritenuta sostanzialmente decaduta, perché è un regolamento, quello della vigilanza, che forza la legge, che va oltre ciò che chiede la par condicio, violando perfino la Costituzione. Siamo di fronte a questo. Quindi il CDA della RAI, quello che dico, ieri poteva assumersi la responsabilità di dire: sapete che c'è, io li rimetto in onda. E poi, presa questa decisione, poteva sì rivolgersi alla Commissione di Vigilanza e dire: ci aiutate a capire come li possiamo mettere in onda se voi non cambiate il vostro regolamento. Perché chiara la sua cosa, ma certo dire andate in onda però ci aiutate poi esponeva a qualche problema. Allora io chiedo quella stessa domanda ad Alessio Butti, del capogruppo del PDL in Commissione Parlamentare di Vigilanza della RAI: come la pensa sulla sostanza della decisione assunta ieri dal CDA della RAI? A lui o poi l'obbligo, in seconda battuta, dopo i ragionamenti formali, di fare una domanda di sostanza. Cioè, la domanda di sostanza è all'uomo di maggioranza, ma scusate un secondo, dal suo punto di vista, al di là della responsabilità istituzionale come membro della Commissione parlamentare di vigilanza, ci dirà cosa pensa. Ma lei non pensa che alla fine l'effetto che si sta producendo è un effetto boomerang per il centrodestra, per Berlusconi e per la sua stessa parte politica? Quindi considerazioni formali, prima parte della domanda, ma è anche una domanda sostanziale a lei. Ma guardi, ci sono sicuramente degli effetti devastanti per tutti quanti, prima di tutto per il buon senso, perché la vigilanza ha prodotto un regolamento, il regolamento è stato vergato da un relatore del Partito Democratico, il relatore è stato scelto da un presidente della vigilanza del Partito Democratico, il regolamento ottempera ossequiosamente a una legge che è quella sulla par condicio, promulgata da un Presidente del Consiglio che era Massimo D'Alema, quindi un po', voglio dire, se la cantano e se la suonano. Lei ha ragione quando dice qui abbiamo ammazzato il buon senso, però vede, bisogna un po' ripercorrere, e così rispondo alla domanda che mi faceva lei poco fa, alcune tappe. Non è vero, non sta scritto da nessuna parte che il regolamento dell'AGCOM debba essere la fotocopia del regolamento prodotto dalla Commissione di Vigilanza. Glielo dico perché la legge parla chiaramente che ci deve essere una previa consultazione e poi nell'ambito delle proprie competenze ognuno decide. Quindi se l'AGCOM, e qui introduco quindi anche giornalisticamente un nuovo elemento, si assume la responsabilità di riproporre la fotocopia o meno, io non entro nel merito perché non è una mia competenza, però sono fatti loro. Io voglio dire che al TAR c'era anche un ricorso contro il regolamento della par condicio presentato dalla Federconsumatori e questo ricorso è stato rigettato. Quindi di fatto la RAI deve fare servizio pubblico ed è una cosa assai diversa rispetto alla emittenza privata nazionale, ovviamente. Quindi, primo fatto, non esiste la questione della fotocopia. Il secondo fatto vero è che io ho letto attentamente la lettera che ci ha inviato il direttore generale della RAI, che chiede umilmente alla Commissione di assumere eventuali determinazioni che evidentemente noi abbiamo già assunto e sulle quali difficilmente torneremo, proprio per evitare poi di generare ulteriormente questo teatrino. E il terzo aspetto è che la RAI ha dimostrato di temere di incorrere in sanzioni che sono pesantissime per chi infrange i vincoli, diciamo, della par condicio. Questo significa che la RAI teme, valutando anche il noto disequilibrio di alcuni conduttori in trasmissioni come quella di Santoro, quella di Floris o altri, teme proprio di incorrere in sanzioni pesantissime, perché tutti sanno che questi conduttori non hanno la benché minima idea di cosa sia l'equità nell'esposizione delle opinioni. Io credo che Santoro lo abbia dimostrato in ogni sua trasmissione, si immagini durante gli ultimi 30 giorni così dedicati della campagna elettorale. L'ultima cosa, le tribune politiche, gli approfondimenti che sono previsti dal nostro regolamento, ecco, quello sì, avrebbero potuto partire anche un po' prima, perché noi prevedevamo ovviamente gli ultimi 30 giorni di campagna elettorale. Ecco, ma onorevole Butti, partiamo dall'affermazione che lei ha fatto e che spiega come i membri che ieri sono stati maggioritari nel voto al Consiglio di amministrazione della RAI, per timore di sanzioni applicate qualora ripartisse i talk così com'erano di Santoro, di Floris, eccetera, per timore di sanzioni per non rispetto alla par condicio, dicono no, voi dovete prima muovervi voi della commissione parlamentare, altrimenti questi non vanno in onda. Le chiedo anche qui buon senso. Se ordinariamente, nella programmazione ordinaria, nel palinsesto della RAI, questi talk ci sono, anzi sono diventati i punti di forza, per così dire, dell'informazione della RAI oltre a Porta di Bruno Vespa, ma se ordinariamente vanno bene per leggere la vita nazionale, e cioè se ordinariamente c'è un'azienda con una maggioranza poi che esprime il Consiglio di amministrazione della RAI, c'è una maggioranza nella Commissione parlamentare di vigilanza, c'è una maggioranza, lo sappiamo che in RAI si rispecchiano le maggioranze e le opposizioni una volta che si vota. Allora, se in quell'azienda quelle sono le trasmissioni su cui è imperniata l'offerta televisiva, e poi si ritiene i membri del Consiglio di amministrazione della RAI, i membri della Commissione parlamentare di vigilanza, ritengono solo in campagna elettorale che quelle trasmissioni siano eccessivamente squilibrate e le sospendono. La mia opinione è che, anche qui, domanda di elementare buonsenso: o non vanno bene sempre, e allora chi è in maggioranza la RAI, una volta che è in linea con il risultato elettorale, le cambia, le leva, gli fa cambiare i criteri, apre con i conduttori un confronto approfondito e se loro non vogliono se ne vanno e li sostituiscono con altri. Ma insomma, se non vanno bene non devono andare bene sempre, o se vanno bene come fanno a essere poi l'offerta di punta della RAI e solo in campagna elettorale non vanno più bene senza regalare, perdonatemi, a chi guarda quelle trasmissioni le considera anzi la frontiera avanzata del giornalismo d'indagine per incalzare Berlusconi, per travolgere Berlusconi, mandare a casa il famigerato Berlusconi, e se poi gliele si toglie in campagna elettorale dicendo quelle sono squilibrate, è come la conferma plateale che ci sia una specie di giudizio di riserva, per cui nei minuti decisivi in cui si decide chi deve fare il gol che conta, il golden goal, allora in quei momenti decisivi no, si levano gli assi che ordinariamente giocano in campo per dire no, è meglio che voi non ci andate. Allora il buon senso in tutto questo io non lo trovo. Eccoci tornati in studio, l'autoribaltamento della logica sui talk show della Rai, mentre la campagna elettorale per regionali fa un ulteriore passo verso l'avvitamento di accuse e disconoscimenti reciproci, l'indagine dei Trani con le intercettazioni di Berlusconi, innocenzi dell'autorità di governo sulle comunicazioni, accuse anche a un membro del CSM, figlio dell'ex ministro Ferri, indagato anche il direttore del TG1 per aver rivelato segreti istruttori sul suo interrogatorio in relazione a questa indagine avvenuto nel dicembre scorso. Perdonate la battuta, ma conosco Augusto Minzolini da una vita, e pensare che Augusto Minzolini possa rispettare il segreto istruttorio, beh, è una delle figure di giornalista più lontano dalla sola ipotesi che gli possa chiedere. Lo dico con affetto e amicizia. Poi resta il fatto che è indagato naturalmente del direttore del TG1. Ma ripeto, l'autoribaltamento della logica, la RAI non riesce, dopo la decisione del TAR che dà il via libera invece alle reti private, a decidere se rimandare in onda i suoi talk, perché non si fida di fronte all'idea che la commissione parlamentare, non avendo modificato nel frattempo il suo regolamento, non sia poi la vera responsabile dell'incorrere della RAI in sanzioni pesanti, perché i talk, se li si manda in onda così com'è il loro format ordinario, di sicuro violerebbero quel regolamento, quindi nel frattempo non vanno in onda. La domanda che io facevo all'onorevole Butti, che è della PDL, la Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla RAI, è che c'è una specie di contraddizione ai miei occhi, perché o quei programmi ordinariamente non vanno bene perché non rispettano gli equilibri dell'informazione, perché Santoro appunto è unilaterale, perché Floris è unilaterale, perché solo quando parlano gli ospiti di una certa parte va avanti e indietro distraendo da chi sta parlando con questo banale strumento di regia, per così dire. E allora però chi è lì alla RAI, visto che la RAI rispecchia equilibri politici, quei programmi li cambia ordinariamente con tutte le polemiche che si scatenerebbero, oppure se invece quella è l'offerta di punta dell'offerta della televisione pubblica informativa insieme a Porta a Porta di Bruno Vespa, insieme a Mezz'ora con di Lucia Annunziata, e allora però ordinariamente è più o meno logico che vada bene anche in campagna elettorale. È questo che io continuo a non capire, perché mi sembra che regali punti non alla sostanza della cosa. La sostanza della cosa è: trasmissioni possono essere caratterizzate da chi le fa in un certo modo, però non le si può accendere e spegnere a comando, se non dando l'idea che viviamo in un paese in cui la libertà di informazione è limitata. Questa è la mia impressione. Sentiamo cosa ne pensano alcuni ascoltatori, poi torniamo con i nostri ospiti. Partiamo innanzitutto con Ida da Torino. Prego, Ida. Buongiorno, la mia voce è peggio della sua, dottor Giannino. Comunque, vorrei sapere una cosa dai suoi ospiti. Come mai Santoro non è mai colpevolizzato, visto la trasmissione che io sinceramente non mi porrei nessun problema, la toglierei completamente, perché a parte non la guardo mai. Ma quelle poche volte che mi sono sintonizzata, fa veramente pena, anche perché è un insulto dall'inizio alla fine. E Bersani è meglio che non faccia ironia sul fatto che il nostro presidente possa usare il telecomando. È inutile che non deve usare questi termini, perché fa solo ridere, ecco. E poi per quale motivo, come giornalista, Santoro non viene mai sanzionato, visto le offese che fa in continuazione nei confronti lui e Travaglio nei confronti del presidente Berlusconi? Grazie, Ida. Questa è l'opinione di una parte d'Italia. Naturalmente Ida saprà che non è l'opinione di tutta Italia, che invece nell'altra parte apprezza molto, proprio per così dire, l'essere molto caratterizzato di Santoro. Sentiamo Marilde da Bergamo. Prego, Marilde. Pronto? Dica. Buongiorno, io ho proprio l'esatto contrario, il mio punto di vista è l'esatto contrario di quello che ha detto la signora. Prima di tutto, sono un po' agitata. No, calma signora, non succede niente. Allora, la par condicio è stata fatta, ricordiamoci, per una cosa sola, perché il Presidente del Consiglio è proprietario delle televisioni private. Questo non dobbiamo dimenticarci, il problema nasce tutto ed esclusivamente qua. Tutto quello che poi sta capitando adesso, che è veramente una cosa triste, io lo riconosco, è il frutto di questa situazione. E poi Santoro, per fortuna che c'è Santoro, che almeno una persona, non è l'unico, ma può dire almeno quello che l'altra parte d'Italia penso che pensi. Grazie Marilde, devo ricordare anche a lei, non solo appunto sono le due parti d'Italia, poi ce n'è anche una terza, per così dire, nella quale mi iscrivo io, e che ricorda che noi dobbiamo questo regime particolare, sì, certo, alle aziende del Presidente del Consiglio, ma lo dobbiamo anche al fatto che poi l'azienda pubblica radiotelevisiva è un'azienda impregnata di politica, e o mettiamo regole chiare, oppure, siccome ogni volta che ci sono le elezioni cambia la maggioranza e c'è il ribaltone, allora il ribaltone poi nei telegiornali, nelle cose, porta ad autoribaltamenti continui. Quindi bisogna fissare dei principi per consentire a chi fa giornalista là dentro di poterlo fare con un minimo di dignità, di decoro e di rispetto anche per questo mestiere. C'è questa particolarità che l'informazione da servizio pubblico è dello Stato, ma è dei partiti, ecco, oltre all'azienda del Presidente del Consiglio. Sentiamo poi ancora Oreste da Bergamo. Prego Oreste. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, io sono amareggiato per il fatto che, come al solito, i politici pensano che gli italiani siano soltanto un serbatoio di voti e non hanno nessuna considerazione della nostra capacità di riuscire a sintetizzare discorsi oppure a cogliere, diciamo, dai fatti quella che potrebbe essere la verità o meno. Cioè ci trattano da bamboccioni, tu non puoi vedere questo, tu non puoi ascoltare quello, tu non puoi leggere questo, ma che cosa significa? Lei li manderebbe in onda i talk? Assolutamente, perché io credo nel mio di avere la capacità di sintetizzare una notizia e di trarne le mie conclusioni o le mie verità, come penso tutti gli altri italiani. Cioè gli italiani non sono un popolo di fessi, cioè non siamo dei bambini che non possono vedere il mezzo nudo, la cosa. Cioè, noi grazie Oreste, poi soprattutto se paghi un canone in cambio e poi ti sospendono pure nel frattempo. Comunque, Vladimiro dalla provincia di Arezzo, prego. Vladimiro. Buongiorno dottor Giannino. Io spero che lei prima o poi diventi direttore del TG1. Non mi faccia di queste cose. Sono sicuro che la televisione funziona. Allora, detto questo, questi signori, Commissione di Vigilanza, CDA RAI, ma posso dire, allargandomi dalla Commissione di Vigilanza al Parlamento, non possono prenderci sempre per imbecilli. Io sono un telespettatore che, come il signore di prima, penso di essere in grado di capire quando è manomessa la notizia, quando è vera, quando è falsa, quando ci sono sotto altri interessi, eccetera. Quello che volevo dire, se questi signori ci prendano per degli imbecilli, io ribalto loro l'accusa e dico che sono delle meriti idioti, perché ci prendono proprio per imbecilli e non è giusto. Questi signori devono recuperare un po' di dignità e un po' di loro autonomia mentale e non essere appesi al filo di quello che comanda ora e di quello che comanderà domani. Questi signori devono imparare a avere più rispetto di noi. Grazie. A Vladimiro ancora Sergio dalla provincia di Salerno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io volevo dire che in qualità di abbonato RAI, in qualità, diciamo, di telespettatore che fa parte di quei 6-7 milioni di telespettatori che seguono le trasmissioni di approfondimento, dico che, essendoci un'offerta che rispetta i criteri del pluralismo, no? Cioè Vespa 5 puntate alla settimana, gli altri 3 o 4 mediamente, non capisco perché questa forzatura sull'offerta di determinate trasmissioni, ma semplicemente per, appunto, come dicevano gli interventi di prima, di colpire le persone che hanno un minimo, diciamo, di non schieramento, ma insomma esigenza di sentire delle pretrasmissioni di approfondimento. Grazie anche a Sergio. Mi pare adesso, naturalmente non è un sondaggio che ha alcuna pretesa di rappresentanza statistica dagli italiani, però Butti e Mori sanno che chiunque abbia fatto sondaggio in queste settimane su questo, la reazione netta, nettissimamente maggioritaria, e lo dico per Butti, questo significa anche che è maggioritaria anche negli elettori del centrodestra, è che questo provvedimento è un provvedimento, questa situazione non è più un provvedimento, ormai è una situazione, un rimpallo, è una situazione che ha creato più proteste che consensi, anche tra coloro che ritengono personalmente, come Ida che ci ha chiamato per prima, che le trasmissioni di Santoro, che le trasmissioni di Flori siano molto di parte e non della propria parte, in generale comunque dicono però allora bisogna cambiarle sempre, non bisogna sospenderle in campagna elettorale, altrimenti è come dire che sono troppo bravi, e sono troppo bravi perché ci danno fastidio, e sono troppo bravi perché non vogliamo sentire che il Presidente del Consiglio chiama i membri della GCOM per dire fate qualcosa per sospendere le trasmissioni di Santoro, e allora fare la figura di quelli che vogliono che l'avversario in televisione abbia una mano legata dietro la schiena non è esattamente la figura buona per avere consenso e apparire dalla parte della ragione, perché fa apparire dalla parte di chi non vuole sentire argomenti ficcanti. Sulla sostanza politica, su questo, che ne pensa onorevole Butti? Adesso, al di là di quello che abbiamo detto prima tra vigilanza e CDA della RAI. Innanzitutto la domanda mi è stata rivolta un quarto d'ora fa e francamente per modo di pensarci sono un po' perso tra le acute osservazioni anche di qualche ascoltatore. Innanzitutto noi giustamente sicuramente dovremmo recuperare un po' di dignità, forse qualche ascoltatore un briciolo di educazione, io non mi sento idiota e non do dell'imbecille a nessuno. La seconda questione è che la par condicio c'entra col conflitto di interesse come i cavoli a merenda, perché tutto il mondo sa, a parte i disinformati in servizio permanente effettivo, che la par condicio la fece D'Alema spaventato dalle europee del 1999, dove usando il mezzo televisivo, e quindi rispondo anche agli altri amici che sono intervenuti, usando il mezzo televisivo la Bonino prese alle europee, se non sbaglio, circa il 9%, e Forza Italia fece quella straordinaria performance. Da qui origina la par condicio, cioè per imbavagliare alcuni quantomeno partiti che avevano ottenuto un grande risultato utilizzando la televisione. Ora lei dice giustamente i talk ci sono ordinariamente, ci sono ordinariamente anche le recriminazioni della commissione di vigilanza RAI, cioè ci sono e sono fatti come sono fatti, cioè Santoro non è una novità, insomma. Esatto, però si badi bene direttore, non solo da esponenti del centrodestra, ma anche da esponenti del centrosinistra con un minimo di attenzione rispetto all'equilibrio, perché quando Bersani con una battuta d'effetto dice c'è il telecomando, basta girare, ma se io ho il telecomando e dopo aver visto Santoro giro e vado su Ballarò e poi giro e sento e vedo la Dandini e poi giro e vedo la Gabanelli e poi giro e vedo il TG3 notte, la rubrica quella del TG3, poi giro e vedo l'Annunziata, poi giro e vedo Fazio, lei capirà, le ho citato solo alcuni dei talk o degli approfondimenti che hanno il torcicollo a sinistra, capisce che no, pur utilizzando il telecomando non ho avuto questa grande possibilità di cambiare. Ogni volta che la vigilanza RAI cerca di elevare una moderata critica a Santoro viene beatificato. Allora lei ha detto anche un'altra cosa importante secondo me, questi talk devono recuperare l'equità, non devono essere cancellati evidentemente e nessuno intende cancellarli, ma devono recuperare l'equità. C'è il pubblico di parte che viene selezionato e che applaude a comando e a senso unico, ma insomma i telespettatori che hanno detto che non vogliono essere trattati da imbecilli, le vedono queste cose? La vedono come viene attentamente calata la regia della trasmissione? Chi sono gli ospiti e con quale aggressività, sempre a senso unico, ragionano gli opinionisti? Quello è un clima da inquisizione. Allora, alcuni, molti sms protestano facendo presente che non vogliono sentire chi critica Santoro, perché dicono se facciamo un bilancio dell'offerta complessiva degli approfondimenti di informazione della RAI, con il numero di puntate che ha Vespa, con la trasmissione di Paragone il venerdì sera eccetera, non è affatto vero che c'è unilateralità, perché c'è unilateralità contrapposta anche degli altri, quindi non è che gli altri vanno bene e chi invece fa trasmissioni come Santoro e Flori gratis non vanno bene. C'è chi invece sostiene una tesi diversa e dice: no, sono trasmissioni molto caratterizzate, e alcune di queste, come quella di Santoro, dichiaratamente a tesi, a faziose. Però detto questo, abbiamo la testa abbastanza sufficientemente autonoma e indipendente per sapere che se la guardiamo, la guardiamo alla ricerca, vedere che cosa ci dice lui, e poi elaboriamo delle opinioni. Cosa diversa è, e questa è la dannazione del servizio pubblico, come si faccia a realizzare una trasmissione in cui ci siano conduttori, oramai sono la forza, l'offerta Rai, e sono perché sono così, è inutile pretendere al Santoro di dire la fai equilibrata eccetera, ragione non vuole butti, ma come si fa? Quello ti butta per aria e si mette a ridere. Questa gestione della RAI, per esempio, ha accumulato tonnellate di richieste per iscritto, osservazioni, avvisi a Santoro prima di andare in onda, delle ipotesi di eventuali sanzioni in cui incorrerebbe la GCOM, a cui, come racconta questo scambio di comunicazioni tra il direttore generale Masi della RAI e Santoro, Santoro molte volte risponde formalmente in maniera impeccabile, nella sostanza continuando a fare quello che ritiene di fare, assumendosi poi la responsabilità delle eventuali sanzioni. Ci sta che è un po' così, resta il fatto che io non capisco come in un'azienda ordinariamente si sia consentito negli anni di fare informazioni di questo tipo, cioè molto caratterizzata, molto faziosa, facendole diventare i personaggi di punta dell'offerta televisiva, e poi gli si possa dire in campagna elettorale: però non va bene, ne chiami 16, fai delle tribune elettorali travestite. Perché in questo io credo che semplicemente poi si dà argomento alle due tribù contrapposte per dire: oh, finalmente ti facciamo star zitto il tuo campione. E dall'altra parte: ah, fascista imbavagliatore, che naturalmente hai paura del fatto che diciamo che hai le televisioni pubbliche, che fai le telefonate ai commissari della GCOM eccetera. Una commedia, se mi permettete, è la commedia delle due parti in lotta che combatteranno fino a che uno dei due campioni sarà in piedi. Probabilmente c'è una parte che oggi ritiene che il campione trafitto dalle lance di Trani sarà trafitto una volta per sempre. Faccio notare che è 15 anni però che andiamo avanti con questa commedia delle indagini che dovrebbero cambiare il segno alla politica italiana. Il risultato è semplicemente che ne abbassano il livello complessivamente per tutti, però io sono in minoranza. Onorevole Morri, come dal suo punto di vista invece, a chi ricorda che la par condicio e tutta questa cosa, l'ha detto l'onorevole Butti, nasceva quando c'era un presidente del Consiglio D'Alema che aveva paura che fossero gli altri a vincere troppo le elezioni e quindi mise il bavaglio, lei che dice che non è affatto così, ma al di là della storia, che questa storia dei limiti e dei bilancini in campagna elettorale non è che dobbiamo una volta per tutte metterci nel cassetto e da questa vicenda trarre la lezione di non pensarci mai più, perché le trasmissioni ordinarie, se vanno bene ordinariamente, vanno bene anche in campagna elettorale? Direttore, io condivido largamente le sue osservazioni e quelle della maggior parte degli ascoltatori che hanno chiamato. Quindi mi limito a dire questo: noi siamo dentro una gigantesca ipocrisia, noi siamo dentro una realtà che vede una maggioranza di centrodestra che governa la RAI dal 2001 e che mai, salvo l'editto bulgaro, quando vennero cacciati Biagi, Santoro e perfino quel comico che esibiva delle mutandine in televisione, diciamo così, mai il centrodestra ha, governando la RAI, messo in discussione evidentemente il profilo di correttezza e di utilità di certe trasmissioni, perché evidentemente Santoro è tornato lì anche con la sentenza del giudice, Bruno Vespa ha sempre tenuto le sue 4-5 serate, quante ne ha, ci sono evidentemente trasmissioni che sono ritenute dal centrodestra della RAI, che governa la RAI da 8 anni, 9 anni, e utili all'azienda. E questa è la prima constatazione che devo fare. Quindi che senso ha poi ogni volta pensare che Santoro sia un campione? Un campione di chi? Io la guardo malvolentieri la trasmissione di Santoro, io lo trovo anche invecchiato. Invecchiato non anagraficamente, invecchiato come formula giornalistica. A me non piace tantissimo. Io difendo un principio. Io provo a spiegare che nella televisione pubblica ci deve essere la rappresentanza di punti di vista diversi. E c'è, viva Dio, perché è stato fatto fare a Vespa uno spot propagandistico sulla consegna delle case, spostandolo addirittura in prima serata, che si è rivelato anche un flop degli ascolti, per far vedere che il governo aveva subito dato la casa. Non c'è un TG prima che la gente dell'Aquila andasse a togliere le macerie, non c'è stato un telegiornale, una trasmissione d'approfondimento che abbia spiegato che il centro storico dell'Aquila era tutto lì e che le macerie se le dovevano portare via i cittadini con le carriole. Di che cosa stiamo parlando? Io non ho mai sentito il collega Butti e nessuno in vigilanza dire: ma come mai di queste macerie non si parla? Hanno dovuto andare in 3.000 a toglierle. No, perché aspetti, però lo dico per, non adesso per difendere Vespa, ma perché la notizia era rispetto all'Italia in cui di solito si rimane per anni col culo per terra, che invece comunque nei primi mesi adesso il mondo l'ha visto che qualcosa si è mosso. Poi certo le macerie ci sono ancora, io non è che sto dicendo di no. Ma viva Dio, le vediamo, li guardate i telegiornali tutte le sere. Io apprezzo le sue, cose, ma lo sapete che dedicano al governo alcuni telegiornali anche pubblici, non solo quelli privati di fede, l'80-70% a fare propaganda per il governo, rendendo le posizioni dell'opposizione ridicole quando non incomprensibili. Perché non si alza un grido su questo? Dobbiamo scoprire che Santoro ha un punto di vista molto fermo e assai discutibile sulle cose, ma pensa che novità. Io se parlo sinceramente vi dico che la trasmissione di Santoro credo che costi ogni volta che va in onda 100.000 voti al PD. Perché del PD non parla certo bene. No, certo, perché allora, parla a favore di aree più oltranziste del PD, questo è il punto. Guardate, c'è proprio, io sono convinto che Santoro ha dato una bella mano a far cadere il governo Prodi, va bene? Con alcune No, ma questo si figuri, ma però voglio dire, non è che si pettano i panni del centrodestra, va bene il fuoco amico che fa cadere Prodi, ma non è che per questo Santoro va bene, questo cioè, io la cosa che non capisco è se possiamo uscire da questa vicenda con un'idea, non facciamo più questo errore oppure no. Temo di no, cioè temo che ancora una volta abbiamo sperimentato in questa campagna elettorale una novità, cioè il fatto dei talk della RAI che non vanno in onda, perché oramai sono quelli della RAI che non vanno in onda, e temo che non si esce con la riflessione congiunta che è meglio evitarlo, se non all'indomani del voto, una volta fatta la conta dei voti, fatta la stima se la sospensione di Santoro e di Floris, perché di questo si tratta oggi, perché sono i commissari di maggioranza del centrodestra a portare a casa questo risultato, sarà considerata positivo o negativo sui flussi elettorali. La mia opinione è che questo non c'entra niente con i flussi elettorali, anzi io accetto scommesse sul fatto se il risultato, che non mi sembra attualmente allo stato degli atti che si profili esaltante per il centrodestra, non abbia come propria componente anche il fatto di essere sembrato a molti che pagano il canone come dei censori al momento sbagliato, perché altrimenti voi Santoro e Floris, se siete convinti che lo sono buoni giornalisti, li dovete mandare a casa o fargli cambiare le trasmissioni sempre, così come a me tutte le volte che è successo mi hanno cacciato nella vita quando editori mi dicevano che mettevo in discussione interessi che non dovevo mettere in discussione. Allora non si capisce perché vale per alcuni e non valga per altri, altrimenti se gliene fate fare dell'offerta di punta non fate perdere soldi ascoltatori alla RAI in campagna elettorale, perché gli ascoltatori e gli elettori sanno usare la propria testa finché c'è salute, per così dire, la sappiamo usare. Avevamo anche altri ospiti oggi, però non è stato possibile collegarsi, quindi abbiamo fatto una trasmissione un po' rabberciata e con qualche fitta da parte mia parlando. Grazie onorevole Butti, grazie onorevole Morri, e appuntamento ai nuovi sviluppi di questa folle campagna elettorale in cui ancora una volta saranno i giudici a decidere per gli italiani, ma io credo di no, ma è da 15 anni che invece loro pensano di sì. Grazie in regia a Filippo Aureggi e a Sandro Marco Tulli, redazione Lina Giornale Radio, appuntamento a domani.